La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Del libro che sto per leggere viene dal mio libro Gelosa di Majakovskij, pubblicato da Marsilio nel 2002. Non a caso si chiama Gelosa di Majakovskij, perché è un libro dove tutti sono gelosi di tutti. I gruppi artistici e i simbolisti sono gelosi dei futuristi, i futuristi ammazzerebbero gli acameisti e via dicendo. E anche in casa Majakovskij sono tutti gelosi. Majakovskij è gelosissimo del marito di Lili Brick, la sua amante, col quale lei lo forzerà poi a vivere, e lui accetterà con una debolezza, con un'insigne debolezza, e rimarrà impigliato a questo terzetto non voluto per tutta la vita. È gelosa anche la sorella di Majakovskij, Liuda, che era la sua prediletta, e quando lui si innamora di Lili Brick, oltretutto una donna sposata, lei muore di dolore. La madre di Majakovskij non si dava pace. Ma come? Il figlio si è fidanzato con una donna sposata e il marito è d'accordo? Ma che parte ci fa quel Brick? Ma che gente è? Gente chic, rispondeva qualcuno. A Pietroburgo si usa così. Intanto Majakovskij ha ancora un rapporto affettuoso con la sorella e le scrive spesso. Le sue lettere erano un canto d'amore a Lilia, anche se non la nominava mai. Le parlava solo del marito di lei, com'era generoso a pubblicargli il libro a sue spese e quanto era sapiente. Più lo portava alle stelle, più Liuda, la sorella gelosa, vedeva quella coppietta infernale che si divertiva a sedurre tutti. Osip aveva messo sotto Majakovskij con la cultura. Lo faceva sentire un ignorante. La cultura classica, di cui è digiuno, Omero, Virgilio, Orazio, Vladimir, si affretta a disprezzarla più di prima, è un futurista lui, ma ne è abbagliato. Sente la loro superiorità sociale. Erano nati meglio e avevano studiato di più. Cioè lui, perché Lili era un'oziosa, ma aveva molto sentito dire. Liuda aveva sempre saputo che un giorno il fratello avrebbe amato un'altra donna più di lei. Come la morte. Si sa, ma non consola. Allora la sorella decide di partire alla conquista di Lilia, perché è la sua unica speranza di riavvicinarsi al fratello. Meditava di andare a San Pietroburgo apposta, quando invece piombarono i Brick a casa sua. Vladimir li precedette per assicurarsi che tutto fosse in ordine. La mamma aveva preparato i dolci. Il salotto era pieno di merletti, borbottava il samovar. Eccoli, arrivano Lilia e Osip, disinvolti, un po' troppo allegri. A Vladimir luccicò lo sguardo quando la madre baciò Lili, sebbene perplessa. Non ammetteva che l'innamorata venisse accompagnata dal marito. Ostentando una confidenza che non c'era, quei due sficcanasarono dappertutto. Facevano i gentili, ma sembrava più un'ispezione che una visita. Vladimir era solenne come un matrimonio. La mamma, sconcertata dalle chiacchiere, non capiva niente, ma la sorella sì, che lodavano ciò che trovavano di pessimo gusto, che se la ridevano dei dolci della mamma, dei merletti di Baghdadi, dei fiori finti, che erano venuti ad un solo scopo, misurare la distanza, a dimostrare che madre e sorelle erano infrequentabili, che il loro Majakovskij, il Majakovskij dei Brick, non aveva niente a che fare con la famiglia. Lilia poi aveva sentito col suo importante naso da faina chi era l'ostacolo là dentro, Liuda, e con lei fu impercettibilmente disgustosa. Arrivavano strane notizie alla sorella. Valodia giocava ogni sera a poker con Osip Brick e vinceva sempre. Scriveva entusiasta: «Ho vinto ancora!» La inquieta quella partita senza fine col brutto Osip. Sente che c'è sotto una furberia che non sa e sta in pena. Ci sente una forma di derisione o una metafora solenne del fatto che Vladimir gli ha preso la moglie, come se la posta fosse Lili. Vladimir tornò a casa perché la mamma si era ammalata e portò a Liuda una spilla da levare il fiato. Lei pensò, è un dono da Dio, e gli chiese, sei diventato ricco a forza di vincere a poker? Vladimir rise, ma mica giochiamo a soldi. Ah no? E a che giocate allora? Libri. Ogni sera ne vinco uno Osip. Ma libri che conosci già? Ma che? Roba mai sentita nominare. E per la sera dopo lo devo avere letto. Te lo chiede Osip? No, ma lui ne parla, ci scherza con Lili. E io che figura ci faccio se non so l'argomento? Finalmente era chiaro. Ecco perché vinceva sempre. Osip lo faceva vincere per obbligarlo a quelle letture massacranti. Più che un rito di iniziazione, una burla. E Majakovskij trascurava le apparizioni in pubblico, l'eleganza, la poesia in una gara impossibile, cercando di colmare l'abisso di conoscenze che lo divideva da Osip. Giù a leggere e leggere, tutti insieme, senza tirare il fiato. Che confusione. Osip, dove scopriva una lacuna, lì si accaniva e scambiava sguardi con Lilia. Osip era impotente fin dall'inizio del matrimonio. La sua virilità si era nascosta dietro una puntigliosa, poliziesca cultura. Un libro sera, per tenerlo in suo potere. Certo, Vladimir si istruiva, ma come voleva Osip? Faust in casa Brick. Osip, Mefistofele di gomma, che cerca di mettere le manine molli e ben curate sull'anima di Majakovskij. Sotto lo sguardo di Lili, Vladimir cambiava forma. Non le piacciono le scarpe coi bottoni? Tutto qui il problema? Benissimo, si cambia stile. Intendiamoci, Majakovskij sa di valere, sa di potere più di loro due messi insieme, più di tutti. Infatti scrive, fra tanti tanti anni, per farla breve, quando non sarò più vivo, chi o crepi di fame o cada sotto una pistola, me, il rossiccio di oggi, studieranno i professori fino all'ultimo iota, come, quando, dove sono apparso. E però è dai due Brick che vuole la laurea. Essi sono gli arbitri. A quel punto sono nel pieno dell'amore e Majakovskij chiede a Lili Brick di andare a vivere insieme. Le chiese di mettere su casa insieme, ma lei gli rispose che non avrebbe mai lasciato Osip. L'unica era vivere tutti e tre. E lui, pur di averla, senza tanto discutere, era andato a stare dai Brick. Vladimir accettò, ma fu una grande, grandissima menzogna. Vladimir avrebbe voluto rapirla, Lilia, e sposarla, e spendere in una notte 3.000 rubli come Dmitri Karamazov con Grushenka, in un'orgia scandalosa e santa. Invece si adattò a vivere nell'appartamento dei Brick, senza cerimonie, e ne andava fiero. Era così convinto che lei fosse la sua sposa fino alla morte, che quel menage a tre gli sembrava un travestimento per rendere l'unione ancora più sacra, celandola ai profani. Tutti i riti, i canti, lo spreco, gli zingari, Vladimir li aveva celebrati in cuor suo con un fasto del quale restava solo la sua mano sopra la testa di lei, che la copriva tutta, come la benedizione di un padre creatore che con quella sola carezza la facesse rinascere. La guardiana del faro. Questa è la storia di Vladimir Majakovskij, il grande poeta della rivoluzione, il grande futurista che morì suicida a 36 anni nel 1930 sparandosi al cuore. E qui è nel pieno del suo amore con Lili Brick, quando lei, che è sposata con Ossip Brick, lui propone a lei di mettere su casa insieme e lei dice: ma no, io non posso lasciare mio marito, vieni a vivere da noi. E così comincia questo terzetto, con grandissimo scandalo della madre e infinita gelosia della sorella Liuda, che si sente abbandonata da suo fratello. Lord upon God, bring your friends, it's fun to lose and to pretend. E un giorno Majakovskij, che vive già con i Brick, va a prendere le ultime cose che ha lasciato a casa della madre e incontra la sorella. Già da un pezzo non viveva lì, ma finora le sue cose le aveva sempre lasciate. E la sorella lo guarda prendere le sue ultime cose. La tristezza della selezione. Più di quello che lui prendeva, straziava la sorella ciò che lasciava. Cose che per entrambi erano ricordi, ma che là, cioè a casa dei Brick, non sarebbero piaciute. Lei zitta. Suo fratello ha tradito, appartiene all'altra tribù. Lily rifiutava la madre e le sorelle, e lui, un poco di loro, si vergognava. Lo facevano antico, lo facevano provinciale. Hai letto, pensava Liuda. Ma che hai letto a fare? Se non capisci cosa sto provando, se fai finta di niente, se non sai che ora dovresti solo abbracciarmi e notare questa minuscola ferita da cucito e dirmi cosa hai fatto alla mano. Si tenne finché non lo vide scartare i primi manifesti sovversivi che gli aveva portato lei, il loro più importante legame. Allora lo mise in guardia. Attento, gli disse, sta attento. E lui, fingendo di scherzare, ma poco a poco furioso: attento io? Mai. Vuoi che metta la testa a posto e mi sposi una brava ragazza di gusto tuo e della mamma? Ma sei matta? Mai verrà per me l'infame buonsenso. Si poteva ancora volgere a scherzo. Ma Liuda perse la testa e si scatenò contro i Brick. Disse nel modo più brutale cosa pensava di loro, gridava, litigarono forte, finché le scappò detto che lui era soltanto lo zimbello di Lilia, uno dei tanti. E allora Vladimir, sì, proprio Vladimir, l'uomo più gentile del mondo, si avventò su di lei e le mise le mani al collo, con la mamma nell'altra stanza, e premeva. Voleva ucciderla, come se una forza maligna lo comandasse a distanza. Era lei, era Lily, che comandava la sua morte. Si sentì la voce della madre. «Che c'è? State litigando?» Vladimir si rese conto. La lasciò. Fuggì via sotto la pioggia, lasciando lì la sua roba. Non parlarono mai più di quel momento, ma esso restò fra loro. Quando si sentivano al telefono, facevano i normali, ma era finita. Per poco non l'aveva strozzata, e solo perché non pronunciasse il suo nome, il nome di Lily. Vladimir aveva l'ornamento che rende più bello il maschio, il pudore. Dover vivere appiccicati, con Osipe nell'altra stanza, segnò lo stile del suo amore. Non poteva gridare amandola. Se fossi piccolo come il grande oceano, se fossi sommesso come il tuono. La sorella non dormiva, immaginando da lontano il peggio di quelle notti. Le ipocrisie, le insofferenze non dette, i disagi piccoli e quello grande come un ombrello che oscurasse il mondo, che lei, per lui, il marito non l'ha lasciato. Non vanno più a letto insieme da tanto tempo? Peggio, molto peggio. Se chi ami non è per te il mondo e i suoi pianeti, è già tradimento. E si addormentava contenta, pensandoli all'inferno. Invece casa loro era la più allegra di Pietroburgo. Era come la strada, ci passavano tutti. La fiamma di Majakovskij attirava i più ardenti. Una rivoluzione in casa Brick. Spariti gli amici altorlocati, Vladimir portò in un turbine la bella gioventù pensante e pericolosa. Chlebnikov, i fratelli Burliuk, Sklosky, tutte le facce dipinte del futurismo e altri ancora. Osip ha buttato via i suoi studi di legge e si è scoperto una vocazione da letterato. Bravo Majakovskij, quel tanghero ha fatto tanto per influenzarlo e alla fine è lui che gli ha cambiato il destino. Lilia sdottoreggiava là in mezzo, beata. Finalmente, grazie a Majakovskij, ha una corte. Il marito di lei, Osip, e Vladimir si capiscono al volo. A Osip piace quell'omone per casa. Osip era fisicamente vile, spiritualmente non ne parliamo. Si beveva e si giocava ogni sera, e non a libri. Vladimir pelava gli amici o si faceva pelare. Mandarini, vino, vodka. Si scialava in vicolo Zhukovsky. Dovevano correre dei bei soldi. Liuda, la sorella di Majakovskij, faceva i conti da lontano. Gli aiuti irrisori e oltraggiosi che il fratello mandava a casa, vantati dalla mamma, che odia le figlie. Zarina offesa le guarda, non sono abbastanza per lei. Vladimir le nobilitava, le giustificava. Adesso, senza di lui, sono tre povere donne. Liuda lavora in tipografia 14 ore, è abbrutita. i conti, i rubli, il pranzo, sempre la peggio vestita, e quegli stivaletti che la guardano dalla vetrina. La fame, sì, la fame, per mettere da parte i soldi e comprarseli un giorno. Risparmi indecorosi. 2 uova in 3, la nobile gara. Prendi, no, prendi tu, io non ho appetito. E Lidia e Vladimir, elegantoni a passeggio sul Nevsky Prospect, lui in cilindro, lei con un gran cappello di piume nere. Questo è dal diario della sorella di Majakovskij, diario immaginario del romanzo. E io sola, i corteggiatori si diradavano, il rancore mi sbarrava l'amore. E poi non ero più tanto attraente. Dopo l'abbandono di mio fratello mi ero trasformata, come cotta al forno, come la bella addormentata che 10 anni dopo, quando si sveglia, giovane sì, ma si era un po' intostata. Ero diventata una bellezza volgare, senza freschezza. Dimostravo un'età equivoca fra i 30 e i 50. E ne avevo 25. Mi era venuta la faccia da lasciata e mi restò sempre. Tentai per l'ultima volta l'impossibile, piacere a Lili. Ecco l'occasione. Ci sarebbe stata una lettura di Majakovskij a Mosca e lo venni a sapere dal giornale. Avrebbe letto Il flauto di vertebre al cane randagio. Dovevo mettermi su bene per affrontare Lili. Se voglio affascinarla, guai a sembrarle vinta. Un vestito nuovo non c'era nemmeno da pensarci. Ma la classe di una donna si vede dalla testa e dai piedi, diceva Vladimir. Adattai mirabilmente un cappellino della mamma che mi ridava un viso innocente. Ci volevano gli stivaletti. Contai i soldi. Malgrado le mie sordide privazioni, mancavano ancora 3 rubli. Giusto quanto occorreva per le medicine della mamma. Beh, non morirà mica proprio stavolta. Devo appoggiarmi a qualcosa di perfetto se voglio guardare con sincero affetto la donna che odio. Varcai la soglia del negozio promesso e salii sugli stivaletti magici con un po' di tacco così sottile. Sopra un abitino nero fa risaltare il mio bel corpo. Il cappello conclude con 2 rose beige, una figuretta gentile. Mi sentivo invincibile. Ma quando entrai al cane randagio, che è uno dei più famosi locali di avanguardia dell'epoca, e Lili, vestita di seta pura in mezzo ai suoi ammiratori, mi squadrò ironica, mi vidi com'ero, con l'abituccio ricavato da una redingotta rivoltata del babbo e gli stivaletti, una povera cosa. Lei con le scarpe francesi, raggiante, e io buia. Mi diede la mano in punta, come per paura del contagio. Poi mi girò le spalle, senza presentarmi a nessuno, sebbene le stesse vicine. Sento i suoi profumi. Saprei dire il prezzo di ogni suo cosmetico e la grana della sua pelle nuda. Riconciliarsi. Volevo morderla a sangue. Non salutai Vladimir. Era già salito sul palco e declamava, ma io non l'ascoltavo. Facevo i conti. Cosa ci sarebbe scappato col lusso di lei per me e la mamma? Andai via prima che finisse. Una avversione incontrollabile mi storceva il viso. Scappai nel buio prima di diventare un mostro e mettermi a latrare fino a far cadere i lampadari e gli stucchi sulla testa dell'oratore e della sua mantenuta. Speravo ardentemente nella rivoluzione per eliminare le signore. E neanche a Natale Majakovskij torna a casa. Questa dal diario della sorella. Venne a sapere del Natale futurista in casa Brick, con l'albero al d'ingiù appeso al soffitto e loro in maschera. Lili avrebbe voluto essere sempre lei l'unica donna e il resto tutti maschi, ma era impraticabile. A quella festa c'erano le sorelle Siniakov. Lilia era gelosa degli amici, appena possibile ridicolizzava fidanzate e amanti e aveva sempre l'aria di dividere qualche segreto con gli uomini. Ma con le Siniakov c'era poco da scherzare. Erano in 5, più forti di lei e non sbagliavano un colpo. Pasternak si era innamorato di Maria, Asiaev aveva sposato Oksana, Klebnikov e Burliuk morivano per le altre. Ne rimaneva libera una, che guardava Majakovskij con languore. Ora a Lili veniva comodo a Elsa per le strategie marginali. E io non c'ero, qui sempre la sorella che parla. Ma vedevo Pietroburgo, il gelo, il vento che porta via e la loro casa calda nel freddo. Vladimir le versa il tè e le scalda le mani col suo fiato di bove. Nelle mie notti, sveglia, davanti ai rami lunari delle betulle, io, atea, pregavo che qualcosa andasse storto. Le loro finestre smaglianti, fuori la neve, mentre stanno lì a ridere e amoreggiare, ci cadesse un fulmine. Con Vladimir dentro? Sì, anche lui. E io sola, viva, sulle loro tombe. Qui finisce il diario e parla di nuovo il gobbo, la spia di Majakovskij. Nessun fulmine colpì la loro casa, ma di peggio. Majakovskij si accorse che Lili non lo amava più. Ormai era suo e lei li voleva tutti, il maggior numero possibile, a cantare le sue lodi. Non mirava all'amore, voleva fondare un culto. In una delle rare visite alla sorella, Majakovskij si vantò dicendole: «Sono totalmente felice». Si è visto, così felice, che 2 giorni dopo tentò il suicidio. E questo è sempre una delle 200.000 interviste che ha rilasciato Lili Brick, numerate, dopo la morte di Majakovskij. Non vivevamo ancora assieme allora. Majakovskij mi telefonò la mattina presto dicendomi: «Addio Lili, io mi sparo». Gli gridai: «Aspettami!». Scesi di corsa le scale, chiamai un vetturino, lo incitai battendogli i pugni sul dorso. Credo che questo lo facesse abitualmente Lili Brick, garbata com'era. «Presto, più presto!». Quando giunsi lì, mi aprì Majakovskij. Sul tavolo stava appoggiata una pistola. Mi disse: «Ho premuto il grilletto, ma fatto ciliegia. Non mi sono deciso a riprovare, ti aspettavo». Allora non conoscevo ancora bene Majakovskij e sospettai che si fosse trattato di un piccolo ricatto. Lo dissi anche a Brick. In seguito entrai in possesso della pallottola. Denotava chiaramente che si era trattato di un colpo mancato. C'era infatti una piccola tacca lì dove aveva battuto il grilletto. Majakovskij aveva sempre avuto un'arma con sé. Allora tutti, dopo la guerra, potevano con facilità ottenere il porto d'armi. Perfino io portavo sempre nella borsetta una piccola rivoltella. Qui finisce la testimonianza di Lili Brick. Del primo tentato suicidio di Majakovskij restano una pallottola intaccata e l'eterna vanteria di Lili Brick, ma anche la sua paura. Oh, quello fa sul serio. Majakovskij era troppo per chiunque. Lei certo era una anaffettiva di tre cotte, ma se anche non lo fosse stata, si sarebbero spaventate donne migliori di lei. La odio, ma forse la odierei di più se lo avesse amato. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Ecco com'è spuntato nella mia vita. Estate. Io sto sul motoscafo di un amico. Filiamo sulla costa. Io non mi ero messa il giubbotto salvagente perché nuoto benissimo. Invece mi sporgo, cado, batto la testa, sto andando a fondo. Quando qualcuno mi afferra e mi porta su. Lui, che si era tuffato da un'altra barca appena mi aveva visto cadere. Io sottile e piccola, lui un ragazzone palestrato, anche spiritoso. Mentre mi riportava a bordo mezza affogata, mi ha detto: «Io Tarzan, tu Jane». Dopo questo inizio ci siamo messi insieme. Lui diceva di essere allergico al matrimonio. Io lo sono davvero. Andavamo d'accordo e lo ammiravo, anche se avevo capito che era un po' cialtrone. Millantava lavori e guadagni, ma faceva pagare sempre me, un grande ballista. Ma ci divertivamo tanto insieme, sempre allegro, sempre brillante. Poi una sera piomba da me con un occhio nero e per una volta rinuncia al teatro e mi dice che è stata una scarpata di sua moglie che l'ha cacciato di casa. Così vengo a sapere che è sposato, con figli, e ora homeless. Chiede di stare da me per un po'. Giorni dopo la moglie mi chiama, io sulla difensiva, guardi che non lo sapevo che fosse sposato, ma lei, gentilissima: «Oh, non è per questo, volevo ringraziarla perché lo ospita, sa, dopo un marito così diventa come un figlio». Stavo in pena per lui. Si piazza nel mio bilocale, io uscivo alle 6 per andare a lavorare e lo trovavo al ritorno davanti alla TV. Ma non era più il ragazzone brillante, aveva tirato fuori il suo vero carattere. Un depresso cronico, cioè un musone, lagnoso e ozioso, pieno di pretese. E mi faceva pesare che lo mantenevo io, come se fosse un affronto. Così per 6 mesi, senza cercare un lavoro, senza più un gesto di affetto. Ho chiamato la moglie. O se lo riprende lei, o per me può andare all'ospizio. Ha 32 anni. Non se lo è ripreso. Sono riuscita finalmente a farlo andare via, dicendogli «Io Tarzan, tu Jane». È tornato dalla sua mamma. E già, perché c'è sempre alla fine una donna che si fa carico di questi bambinoni, scrocconi, ingombranti, dannosi, comici e pure musoni. Vi siete conosciuti come succede solo al cinema. Si capisce la sbornia iniziale. Io Tarzan, tu Jane, un gioco divertente, ma non era vero cinema. Era solo il trailer di un film che non è mai stato girato. Il mito di Jane. È duro a morire anche se l'ultima Jane è morta da un bel po'. Mi pare all'inizio degli anni Ottanta. Era bella, obbediente, muta e felice. Perché Tarzan è meraviglioso, forte, ingenuo, fedele fino alla morte. Le belve si inchinano a lui, le scimmie lo adorano. Dall'Eden a Hollywood, Adamo ed Eva vivono fuori del mondo, prima della caduta, e con un vantaggio. Non c'è da rendere conto a un Dio sospettoso. Tarzan stesso è Dio, con questi suoi fianchi coperti dalle spoglie di una belva. Perfetta donna oggetto di un uomo oggetto, entrambi non pensano e sono lì per fornire pura evasione. Com'era bella Jane, in fuga tra i selvaggi e i caimani, ma lui, maiuscolo, avrebbe provveduto a tutto. Jane, l'attrice che interpretava Jane, è morta, ma noi siamo ancora tutte vive. Noi donne intelligenti, impegnate, in rivolta, tutte, cioè molte, tutte no, ma molte, pronte a danzare sul palmo della mano di un Tarzan che spesso non è più all'altezza. Non basta una generazione perché le donne si abituino al benefico e dignitoso dono, quando occorre, della solitudine. Perché la cultura dell'idolatria maschile è paurosamente invariata nei secoli. Noi serbiamo sempre, ridicolmente, il nostro Tarzan interiore. Vogliamo l'eroe, il salvatore, e lo cerchiamo in questa massa di uomini pavidi, come noi, più di noi, alla deriva in un mondo che sta scoppiando. E pur di raccontarci una storia, perché la solitudine sia meno agghiacciante, eccoci Jane, come è successo a te, schiave da salvare. Ma i maschi non possono salvare nemmeno se stessi, e accettano la servitù, ma senza rendere lo scambio padronale. E quindi, eccoti schiava di schiavi. Sai cosa ti è mancata? Ti è mancata la velocità dello scatto nel cacciarlo di casa. Ogni volta che esitiamo, ci creiamo dei grandissimi guai per il futuro. Un'altra volta spero che tu sarai più veloce. Non so perché scrivo, tanto quello che dovrei fare lo so da sola. Vivo in un paesino dove essere fidanzati da 8 anni vuole dire essere sposati. Ora probabilmente farò lo stupido sbaglio di sposarlo. Avessi almeno gli occhi tappati, avrei una scusante. Se il mio matrimonio sarà un fallimento, la colpa è solo mia, perché non sono stata capace di troncare una relazione che non potrà mai funzionare. Sta solo a me vedere se preferisco essere pecora o leone. Angie. Dici, non so perché ti scrivo. Beh, te lo dico io. Per vedere se, mettendo la pecora sulla carta, magari tante volte si trasformasse in un leone. Io lo spero, perché se lo sposi, lo scandalo è solo rimandato. Sarai per un po' di tempo una pecora molto infelice, poi ruggirai tutto in una volta, con molto maggior chiasso che se non lo facessi oggi. Rompere un fidanzamento, per quanto difficile, è assai più facile che rompere un matrimonio. Anche questo lo so che lo sai, però te lo grido nell'orecchio, in maniera molesta, sperando di farti fare un salto, fuori dal cerchio dell'obbedienza. Perché poi si tratta di pochi centimetri, eh. Basterebbe essere almeno un poco amici di se stessi. Buongiorno, mi chiamo Fabio. Sono un ascoltatore di Radio 24, anche se inciampo nel suo programma solo di rado. Ho 42 anni. Anni fa ho conosciuto una stupenda ragazza ucraina a Venezia. Dopo 3 anni di viaggi tra Milano e Venezia abbiamo deciso di sposarci e abbiamo avuto un bel matrimonio di 8 anni, con alti e bassi, ma sempre vicini, a tenerci la mano, a condividere le cose. Io viaggio per lavoro. E purtroppo al rientro da un viaggio ho trovato mia moglie senza vita, in attesa della nostra prima figlia. Tralascio i sensi di colpa per aver lasciato mia moglie morire da sola. Rimasto da solo, ho capito quanto mia moglie mi amava, incondizionatamente. E io l'ho capito purtroppo tardi. Il mio messaggio a tutti quelli che hanno una compagna di vita: guardate chi avete vicino, i piccoli gesti che fa per voi, quando non si lamenta, quando vi guarda innamorata, la tenerezza con cui cucina o con cui si spoglia vicino a voi. Saluti, Fabio. Fabio, ti ringrazio per questa lettera. Io la leggo non perché ci sia qualcosa da rispondere, ma solo per condividerla. E grazie per aver raccontato quello che ti è successo e che succede a molti di noi, a quasi tutti, a me sempre. Io non sono in pace con nessuno dei miei morti. Però, da come parli di questa donna, penso che tu abbia saputo farle sentire il tuo amore molto più di quanto il tuo dolore ti faccia credere. Perché ci sono i rimorsi veri, motivati, e ci sono quelli inventati dalla nostra cattiva coscienza e dalla sua mancanza. Cara Barbara, taglia di qua, taglia di là, ci stanno tagliando la vita a favore delle banche. Almeno mantenessero un dignitoso riserbo. Invece hanno ereditato l'uso berlusconiano di dire una buttata atroce, poi ritirarla a metà. Intanto si pavoneggiano sui giornali e ciò che è detto resta. Io non ho mandato giù ciò che il presidente Monti ha detto, con l'aria di fare una lezione ai giovani, che il posto fisso è noioso. Un'uscita così frivola se la può permettere un dandy dallo sgabello di un bar con un drink in mano, facendo lo snob coi suoi amici fannulloni. Ma non chi ha quel ruolo. Come può misurare le nostre risorse chi non sa misurare le parole? Mio figlio, informatico preparatissimo, ha cambiato 8 lavori in 6 anni, da elettricista a pony a cameriere, sempre più lontano dalla sua specialità, che ha poco modo di coltivare. Si sta tirando su una generazione di giovani che non si qualifica in niente e che non può sognarsi di mettere su famiglia. Che farà a 40 anni? Il posto fisso sarà noioso per dei giramondo che vivono di rendita e dicono «Toh, che faccio oggi?» Non per chi è costretto a disperdere il proprio patrimonio di conoscenze per pochi euro. Non voglio fare la lacrimevole, questa è la situazione. Credimi, non è noioso, è durissimo. È troppo chiedere un po' di rispetto? Martina. Sì, è troppo. È troppo perché, vedi Martina, da sempre i potenti non riescono ad astenersi dalla beffa. Si vede, io immagino, che comandare non basta. E si vede che non si corona la vera soddisfazione senza l'oltraggio. Nei secoli passati le carrozze della classe dominante correvano per la strada sollevando schizzi di fango, pigliando sotto tutti quelli che passavano. La misura della grandezza è evidentemente nell'umiliare chi paga le gabelle. Io ho molto rispetto per il Presidente del Consiglio per il suo ruolo, però devo dire che in questi giorni mi ha fatto piacere ritrovare per caso una poesia ingenua e sapiente di Tommaso Campanella, il grande frate calabrese, il grande ribelle, il grande studioso che visse dal 1568 al 1639, in questo arco di tempo più in galera che fuori, perseguitato dal Santo Uffizio, 5 processi interminabili gli hanno fatto subire. Per la sua libertà di pensiero, per il suo appellarsi al Vangelo, lui ebbe il coraggio di difendere Giordano Bruno, cercando di evitargli il rogo e rischiando di finirci lui stesso. La poesia di Tommaso Campanella si intitola Della plebe. Il popolo è una bestia varia e grossa che ignora le sue forze. E però stassi a pesi e botte di legni e di sassi, guidato da un fanciul che non ha possa, che egli potrebbe disfar con una scossa, ma lo teme e lo serve a tutti spassi. Né sa quanto è temuto che i bombassi sarebbero qua i preti, fanno un incanto che i sensi gli ingrossa. Cosa stupenda! E s'appicca in prigiona con le man proprie e si dà morte e guerra per un carlin di quei che egli a re dona. Tutto è suo quanto sta fra cielo e terra, ma non lo conosce. E se qualche persona di ciò l'avvisa, e l'uccide e l'atterra. Questo era prima delle grandi rivoluzioni. A 200 anni dalla Rivoluzione francese ci troviamo però a meditare tristemente sulla frase del film di Yanez, dove il diavolo diceva «L'unica rivoluzione che sia mai riuscita è la rivoluzione dei ricchi». Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Voglio ringraziare lo scrittore Michele Mari, perché finalmente trovo qualcosa di sensato sulle scuole di scrittura che ha detto lui, queste scuole di scrittura che mi lasciano così perplessa e mi fanno pensare a una truffa verso la letteratura, una fabbrica della mediocrità, un attentato alla scrittura, un importante contributo alla morte della letteratura. Io penso all'Opoyaz, fondato nei primi decenni del Novecento da Osip Brik, passato alla storia soprattutto per essere il marito di Lily Brick, che era l'amante di Vladimir Mayakovsky, e per quell'infernale menage a tre che finì solo con la morte del poeta, in cui pari Osip e Lily ebbero una parte molto losca. Osip Brick aveva fondato la Società per lo studio della lingua poetica, con degli altri giovani più dotati di lui, come Viktor Sklosky e Roman Jakobson, mi scuso con i morti per le pronunce. Stavano sempre a fare le pulci ai grandi. Studiavano Gogol, Pushkin, Dostoevsky e credevano di capirli meglio di loro stessi. Rivelavano il meccanismo delle loro frasi e le smontavano come orologi. Mica le avrebbero sapute rimontare, però. Io capirei se studia che ti studia avessero imparato a scrivere come quelli e che un giorno Osip si sveglia e si è impuschinito dalla testa ai piedi. O magari ce lo potessero dire pure a noi disgraziati. Ehi, sapete che c'è? Ormai abbiamo scoperto il segreto. Sappiamo come si fa e ci ingogolisce a tutti. Ed ecco questo interessante parere di Michele Mari, che non ci delude mai, l'autore di Fantasmagonia, uscito da poco per Einaudi, e di altri libri bellissimi come Tutto il ferro della Torre Eiffel, Tu sanguinosa infanzia, I sepolcri e i fumetti. Ecco, Michele Mari a scuola di scrittura non c'è mai andato e si vede. Si vede dalla sua originalità e dalla sua potenza. Questa è la sua breve dichiarazione. Cosa pensa delle scuole di scrittura creativa, attualmente molto di moda? Michele Mari: sono piuttosto scettico. Ho una visione romantica e decisamente solipsistica della letteratura, per la quale credo che ci voglia una fortissima vocazione e anche molto autodidattismo. Innanzitutto fondamentale leggere, leggere, leggere. Il fatto che queste scuole abbiano sempre più successo mi stupisce un po', perché mi sembrano una scorciatoia. Per arrivare dove? No, questo commento mio. Per arrivare dove poi? È una pessima letteratura. Poi magari tante volte in queste scuole ci capita anche qualcuno bravo e poi si dice: ah, ma lui è nato in questa scuola di scrittura. Ma no, è nato scrittore e poi magari è riuscito a uscire indenne dalla scuola di scrittura senza farsi rovinare, nel migliore dei casi. Continua Michele Mari: mi verrebbe da dire a tutti quelli che pagano fior di milioni per frequentare queste scuole, prima passate tutta l'infanzia e tutta l'adolescenza a leggere la letteratura di mezzo mondo e poi vedete se vi viene voglia di entrare nello stesso rengo e cimentarvi con gli autori che avete amato. Secondo me poi, lo scrittore non deve avere troppe consapevolezze. Se ancora prima di scrivere un raccontino o una favoletta già conosce le teorie narratologiche, c'è qualcosa che non va, mi sembra. Michele Mari, grazie. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Carissima Barbara, ho compiuto 50 anni in ottobre e ancora non ho messo la testa a posto e il cuore in pace. Mi sono innamorata 4 anni fa di un professore di architettura americano incontrato a Roma, perché qui per lavoro. Lui è tornato regolarmente per 5 mesi l'anno per 3 anni di seguito. Poi l'anno scorso ha avuto solo un incarico estivo. Insomma, le possibilità di stare insieme si sono sensibilmente assottigliate ed io sono figlia unica di 2 anzianissimi genitori ancora in salute, sebbene non autonomi, che non so come gestire. Non ho altri legami, visto che il mio lavoro è precario, archeologa, quindi se non fosse per i miei l'avrei già raggiunto negli States. Invece quest'inverno sono stata presa da una botta di impazienza e l'ho mollato. Ed ora sono pentita e mi maledico per averlo fatto soffrire e per non aver saputo aspettare. L'ho risentito via Skype ed ho capito che anche lui mi ama ancora, ma è a sua volta bloccato da una situazione familiare difficile. Un divorzio in corso e 2 figlie non ancora autonome. E poi lui, al contrario di me, ha un buon lavoro in una università e gli piace insegnare. Insomma, è un adorabile nerd, perfetto per me. Lui è l'uomo dei miei sogni, sul serio. L'ho sognato tante volte da quando l'ho conosciuto e mi sono innamorata di lui prima in sogno. Ma è giusto credere ancora ai sogni alla mia età? Grazie per la risposta. Con affetto e simpatia, Maria Grazia. Ma se è per l'età, ti posso assicurare che più si va avanti e meglio si sogna. Certo, se lo si è sempre fatto, se è un'essenza, se è uno stile, non è che d'un tratto ti mette a sognare a 50 anni. Questa storia tua d'amore è vivissima, con tutte le sue difficoltà e anche per quello. Tu non ce l'hai fatta, non hai osato fino in fondo. Tu l'hai lasciato, ma niente è finito. E adesso hai assicurato a te e a lui un bel male d'amore. Sai, quasi ti invidio. È una grazia. È una grazia il vostro fervore, la vostra nostalgia uno dell'altro, questo vivere nell'amore. Siete la personificazione dei versi di Emily Dickinson, che rileggo per te per celebrare questo amore lontano, dalla poesia Io non posso vivere con te. E ci sono questi versi finali. Così dobbiamo rimanere separati. Tu là, io qui, con solo socchiusa la porta, che sono gli oceani. E qui lo devo ridire nell'originale, anche se sono stata minacciata in sogno dall'ombra di Emily, che mi ha detto non t'azzardare più a ripetere i miei versi in inglese con la tua pronuncia schifosa, però mi sembra pure brutto non dirli, perché c'è quella parolina, ajar, intraducibile in italiano, con solo socchiusa la porta che sono gli oceani, with just the door ajar, that oceans are, perdono Emily. Questa è una poesia di Edward Easling Cummings, il poeta americano nato nel 1894, l'anno di Mayakovsky, e morto molto più tardi, nel 1962, che fu soldato, pittore, amato da Lawrence d'Arabia, amato per i suoi libri, intendo dire, The Enormous Room, della quale Lawrence d'Arabia disse di gran lunga il miglior libro americano sul periodo della guerra. Ecco, e leggo questa sua poesia. Mi piace il mio corpo quando è col tuo corpo. È una cosa tanto nuova. Muscoli meglio e nervi di più. Mi piace il tuo corpo. Mi piace quel che fa e il come. Mi piace sentire la sua spina dorsale, le sue ossa e il tremolante liscio sodo che bacerò ancora e ancora e ancora. Di te mi piace baciare questo e quello. Mi piace lentamente accarezzare il folto elettrico pelo. E occhi grandi briciole d'amore. E forse mi piace il brivido di sotto me te, così nuova. Questa è la poesia 96 della raccolta 95 Poems. Io porto il tuo cuore in me, lo porto nel mio cuore, non lo lascio mai. Ovunque vado tu vai, cara. E quel che faccio io da solo lo fai tu, tesoro mio. Non temo fato, tu sei il mio fato. Mia dolce, ne voglio il mondo. Bella, mio mondo, mia fedele. Tu sei quel che l'una sempre fu e quel che un sole sempre canterà sei tu. Qui sta il più grande segreto che nessuno sa. Qui l'intima radice, bocciolo e cielo di un albero chiamato vita, che cresce più alto di quanto anima speri e mente cieli. E questa meraviglia regge le stelle. Io porto il tuo cuore, lo porto nel mio cuore. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.